4 mattino. Buongiorno, a me è arrivato tutto. 600 euro, fatto richiesta del prestito, dopo 5 giorni avevo i soldi accreditati su conto corrente. Quindi meglio di così, nella difficoltà è andata bene. Di Salvini com'è? Buongiorno innanzitutto. Cerca qualsiasi pretesto, si attacca a qualsiasi cosa, notizie farlocche, notizie false, bere a metà per fomentare persone, le persone su Facebook si fomentano con niente, quindi vedono, ah vedi non ci curano con la cura al plasma, il governo ladro. Grande Spezia, la cura al plasma è troppo difficile, bravissimo, bravissimo. Chi te l'ha detto? Il tuo amico Burioni, è troppo difficile perché non costa niente? Dobbiamo creare il vaccino, Spezia? Troppo difficile la cura al plasma perché è gratuita! Vabbè, colgo lo spirito allegro, sarcastico con il quale l'ascoltatore manda questo messaggio. Non ho detto che è troppo difficile, ma dico semplicemente andatevi a leggere un po' di documentazione su questa cura. Ce ne sono, c'è in giro, ci sono degli articoli interessantissimi e molto approfonditi su tutto questo. E che vi spiegano non che è più, non è che è difficile. Innanzitutto che è una cura e non è un vaccino, prima cosa. La seconda cosa è che non si può applicare a tutti. La terza cosa è che non è che tutti i positivi possono donare il plasma, perché devono avere determinate caratteristiche anche, insomma, anche le persone che hanno questi anticorpi da Covid-19. Cioè, semplicemente non è così facile come sembra, non è, come abbiamo detto, non è il silver bullet, non è il proiettile d'argento. In questo momento il proiettile d'argento non ce l'ha nessuno. Anche se è chiaro che poi, insomma, le nostre speranze è che sono che se ne trovi uno, che si trovi la soluzione al problema, quello che ci permette di riprendere la nostra vita. Un po' come era prima. E sono lieto che invece, per tornare al tema economico, che ci siano molte persone, per essere chiari, insomma, noi quando andiamo è chiaro che in situazioni di questo genere si sottolinea quello che non funziona, perché bisogna farlo funzionare. Poi c'è anche gente che i 600 euro l'ha ricevuti, come questa ascoltatrice, i 25.000 euro del prestito li ha ricevuti, per carità, è chiaro che insomma, ce ne sono molti, non è che lo neghiamo, anzi. Molti ascoltatori continuano a segnalarci che abbiamo problemi con la nostra app. Mi dispiace ragazzi, stiamo cercando di risolvere, il nostro reparto tecnico sta lavorando perché le trasmissioni siano ripristinate al più presto. Nel frattempo potete seguirci volendo dal sito, se avete bisogno dell'online, sulla pagina Facebook di 24 Mattino siamo in diretta video, quindi se volete potete anche vederci. È la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 6 maggio e le prime pagine dei quotidiani sono varie oggi, variano sui titoli. La Repubblica sceglie di parlare dei boss scarcerati. E perché? E perché ci fornisce dei dati, la lista segreta. Ci sono i nomi di 376 uomini dei clan e narcotrafficanti messi ai domiciliari per motivi di salute e rischio Covid. Questo è il numero 376, perché finora abbiamo parlato solo di quelli che sono usciti dal 41 bis, però ci sono tutti gli altri, i colonnelli, Mascherini e aiuti, la ripartenza che non va è l'altro titolo della Repubblica. I medici di base, fase 2 senza rete, il titolo del quotidiano nazionale, ancora sul tema sanitario. Scelgono la politica e lo scontro politico sugli aiuti, il Messaggero e il Corriere della Sera. Lo scontro rallenta gli aiuti, tensione sul decreto, tempi più lunghi su imprese. Economia scontro nel governo è il titolo del Corriere della Sera. La Stampa apre con un'intervista a Prodi sulla decisione della Corte costituzionale tedesca in merito alla Banca Centrale Europea. Prodi, Berlino ha perso fiducia nell'Europa. La Verità fa la stessa scelta, non ovviamente con un'intervista a Prodi, ma titola su questo: la Germania dà i 3 mesi all'Unione Europea. Il Manifesto, stessa cosa. L'ideologia tedesca, la Germania apre la battaglia su chi pagherà la crisi. Il Sole 24 Ore apre sul credito d'imposta, un incentivo senza precedenti per l'edilizia in arrivo con il decreto. Ci racconta che per le misure anti-Covid ammontano a 763 provvedimenti in 100 giorni, 763, e non sono comprese le ordinanze dei sindaci. Fatto Quotidiano intervista Giuseppe Conte, così le regioni possono riaprire qualcosa prima, un'intervista a tutto campo. Libero sulla sanatoria, in Italia 30.000 morti rimpiazzati con 600.000 migranti. Avvenire su quello che ha detto una delle tante task force, quella della ministra Pisano. Lavorare meno tutti. Riduzione d'orario a parità di salario e reddito d'emergenza allo studio. Il mio Salva Italia, l'intervista a Berlusconi per il Giornale. Scudetto fase a 3 è il titolo della Gazzetta dello Sport. Juve, Lazio e anche Inter. Strategie per la volatona. Iniziamo come sempre da qualcosa, insomma, che solo in parte troviamo sulle prime pagine dei giornali, ma è il grande tema delle mascherine. Io non so chi di voi nei giorni scorsi ha provato ad andare in farmacia o in qualsiasi altro luogo a comprare delle mascherine, ammesso che non ce le avesse già in casa, e a cercarle ai famosi 50 centesimi di euro dei quali aveva parlato il commissario Arcuri. Facile che non le abbia trovate, stando a quanto raccontano tanto Repubblica quanto La Stampa. Mai arrivate nei negozi, perché sono introvabili le mascherine a 50 centesimi. Lo raccontano Marco Mensurati e Fabio Tonacci. Al terzo giorno della fase 2, le mascherine chirurgiche a prezzo calmierato sono quasi impossibili da trovare. Le farmacie dicono che le hanno vendute tutte già prima della fine del lockdown e che non sono state rifornite dalla protezione civile. La situazione, da nord a sud, è quella che si legge poi nei colonnini a corredo dell'articolo, appunto, della Repubblica. Hanno dato fondo alle scorte, per esempio, a Torino, in attesa che i grandi distributori inviassero le mascherine. A Milano le mascherine sono ancora attese, nel giro di 2 o 3 giorni dovrebbero essere disponibili, dice la presidente di Federpharma a Milano. A Genova sono introvabili, vendiamo le rimanenze in perdita, il prezzo d'acquisto era 1,25 euro, dice il presidente dell'Ordine dei Farmacisti. Questa è la situazione, una situazione che è partita con questa fissazione del prezzo a 50 centesimi, la vendita quindi a 61 centesimi al pezzo perché c'è anche l'IVA, la garanzia di un ristoro a quei negozianti che hanno già provveduto a rifornirsi a prezzi più alti. La speculazione è finita, ha ribadito Arcuri. Ma cosa è successo nel frattempo? Il presidente di Federpharma, Marco Cossolo, dice: è da almeno 15 giorni che gli importatori non le consegnano più. Perché? L'economia di mercato, bellezza vien da dire, poiché 2 settimane fa è circolata l'indiscrezione che il governo ne avrebbe mitigato il prezzo. I broker, privi di indicazioni, hanno smesso di lavorare con l'Italia, non potendo fissare un costo a loro conveniente. Quelle con marchio CE non si trovano e non mi interessa sapere la ragione, dice Cossolo. Quelle importate con autocertificazione non possono essere vendute, nonostante abbiamo magazzini pieni, perché l'Istituto Superiore di Sanità che deve autorizzarle non riesce ad evadere le pratiche. E infine le mascherine che Arcuri si è impegnato a rendere disponibili non sono ancora arrivate. Ci torna anche La Stampa, pagina 9, con Paolo Russo. Mascherine introvabili ancora molto care, nessuno rispetta il prezzo calmierato. Riguarda sia le mascherine, un'indagine condotta da Cittadinanza Attiva per La Stampa. A Milano 3 farmacie su 4 sono sprovviste di chirurgiche, stessa cosa a Genova. E i guanti monouso non si trovano più tanto facilmente. Quando ci sono, si scopre che il prezzo di una scatola da 100 pezzi è schizzata da 5 euro a oltre 10. Ancora Consolo di Federpharma: li stanno facendo pagare a noi 8 euro più IVA, normale che poi il prezzo salga oltre i 10 euro. E quindi apriamo questa fase 2, insomma, con la difficoltà a trovare ancora una volta i dispositivi di protezione. Ci sono poi un po' di piccole storie, singole storie dal territorio. Vi parlavo dell'Istituto Superiore di Sanità che, insomma, ancora una volta, perché siamo sempre in Italia, fatica a star dietro ai via libera, alle mascherine, quelle prodotte con autocertificazione. E visto che il paese resta un po' sempre lo stesso, resta la stessa anche ATAC, l'azienda di trasporto pubblico romana. Però in una fase particolarmente delicata, siamo a pagina 33 del Messaggero. Il pezzo firma Lorenzo De Cicco, ATAC 90 nuovi bus già ritirati, appena arrivati naturalmente, mi sembra un classico. Mentre si moltiplicano i capannelli dei pendolari in attesa del bus o del metro, capannelli non sempre ordinati, a distanza di sicurezza, l'ATAC perde in un giorno solo quasi 100 mezzi freschi di fabbrica. In strada da pochi mesi, dopo una sequela di inaugurazioni nelle periferie romane, 91 autobus a metano sono stati frettolosamente ritirati dalla strada per un problema serio. La società che ha prodotto i veicoli in Turchia per conto del comune, la industria italiana Autobus, ha ricevuto pochi giorni fa una lettera dalla Emer, il costruttore delle valvole di sicurezza dei mezzi. La ditta, in sostanza, ha rivelato che il modello montato sugli autobus in circolazione a Roma era difettoso. Che tipo di falla è? Le valvole di sovrappressione, che dovrebbero essere regolate per non superare i 300 bar. Ricordatevi che va a metano, quest'autobus. Avrebbero potuto andare fuori controllo, erano in grado di raggiungere, spiega un esperto, fino al doppio della pressione, anche 600 bar o perfino di più, col rischio quantomeno di un incendio, quantomeno vuol dire che c'era anche il rischio di esplosione. E dunque, 90 autobus appena arrivati che devono essere immediatamente ritirati dal mercato e speriamo per i romani aggiustati presto, soprattutto in questa fase delicata. Piccole storie dal territorio invece ci portano per esempio all'idea di una scuola di Varese, che potrebbe far discutere decisamente. Alla materna col bracciale smart, suona se i bambini si avvicinano, per evitare, per far sì che i bambini della scuola materna mantengano la giusta distanza. Stiamo studiando come rendere il sistema un gioco per i più piccoli. A Castellanza, siamo provincia di Varese, lo racconta il Quotidiano Nazionale con Enrico Camanzi a pagina 4. È possibile insegnare ai bambini il rispetto del distanziamento sociale, delle regole anticontagio, come se fossero un gioco? Alla scuola materna paritaria Eugenio Cantoni di Castellanza, popoloso centro del Basso Varesotto, sono convinti di aver trovato la chiave giusta. In attesa della riapertura della struttura, con l'inizio del nuovo anno, con la formula dei centri estivi, la direzione dell'istituto, 150 alunni e poco meno di una cinquantina di dipendenti, ha deciso di acquistare 200 braccialetti smart da un'azienda barese. Semplice il funzionamento, si infila al polso come se fossero orologi. Una volta impostata la misura di un metro minimo di distanza tra loro, i piccoli monili vibrano e si illuminano se si supera il limite consentito di vicinanza fisica. E quindi l'idea sarebbe quella di metterli ai bambini per evitare che, insomma, stiano troppo vicini. E poi le storie di confine. Vi abbiamo raccontato prima, vi abbiamo fatto sentire la voce, la storia poi viene raccontata oggi anche dal Corriere della Sera, e anzi Carmelo Lauricella, la recuperiamo per chi non l'avesse sentita alle 6.30, perché insomma è quell'uomo che deve festeggiare il compleanno suo e della madre, e quindi la madre vive in Trentino, lui vive in Veneto, non può superare il confine e quindi si vedono al confine. Risentiamocela quella voce, va Carmelo, ce l'hai, la recuperiamo? Non ce l'abbiamo, vabbè, adesso la recuperiamo. Intanto vi racconto la storia che c'è sul Quotidiano Nazionale a pagina 17 e che arriva anche qua da un confine. Elisabetta Ferri da Pesaro, con lei di Pesaro, lui di Rimini, sono separati da 2 mesi, le misure non hanno allentato il lockdown e hanno festeggiato sul ponte tra Gabicce e Cattolica. E c'è questa foto che è veramente impressionante, no? Il riminese Cesare Novara e la pesarese Daniela D'Angeli che hanno brindato al confine, c'è una rete in mezzo sul ponte tra Gabicce e Cattolica, c'è una rete e ci sono delle transenne, c'è lui da una parte della rete, lei dall'altra parte della rete, mantenendo il metro di distanza e facendo il brindisi un po' come il signore al confine tra Trentino e Veneto. Ce l'ascoltiamo e poi andiamo in pausa. Allora, dato che non si può stare vicini fra Veneto e Trentino, ho deciso con la mia mamma che abita in Trentino di festeggiare il compleanno qui, esattamente al confine. Abbiamo apparecchiato a un metro uno dall'altro e dato che compivo gli anni e la mamma non è potuta starmi vicino, adesso facciamo un brindisi. La candela è andata, ma comunque facciamo anche un brindisi alla nostra. Ciao mamma, auguri. Auguri amore. Mattino. Mia moglie ha un negozio che è stato chiuso ovviamente insieme a tutti gli altri e ha preso i 600 euro per richiedere i 25.000, è stata la mezza odissea, però alla fine li ha chiesti e dovrebbero arrivare. In compenso l'INPS ha voluto tutti i suoi contributi e a metà maggio c'è da versare. Io non ho capito perché il prestito dei 25.000 euro debba avere delle condizioni bancarie differenti da banca a banca, anche sensibili. Se è un prestito di Stato a garanzia di Stato, perché lo Stato non garantisce a tutti quanti le stesse condizioni bancarie? Ciao Simone, ma figurati se si va a votare, figurati. Col PIL che è quasi almeno 10%, qualcuno si assume la responsabilità di prendersi in gobba un'Italia in declino totale? Ma stai scherzando? Caro Paolo Mieli, buongiorno. È un buon punto quello dell'ascoltatore. Adesso ci arriviamo alla parte politica. Che dici? Ma poi, tra l'altro, l'ascoltatore la pensa esattamente come Mattarella. Oggi tutti i giornali sono pieni di appelli segreti, non fatti in prima persona, ma mandati a dire del capo dello Stato che dice: guardate che qui c'è il rischio che si vada a votare a settembre. E quando Mattarella manda questi appelli, ormai non è la prima volta, vuol dire che non si va a votare. Certo. C'è un incitamento a mettersi d'accordo. E guarda, prima cominciamo, sì, allora, esaminiamo subito. Ci sono due mega interviste oggi, una dei due alleati segreti di questa, sì, che sono Conte, Presidente del Consiglio, grande intervista al Fatto, dice: io sono sicuro di andare avanti fino alla fine della legislatura, e Silvio Berlusconi, grande intervista al Giornale, in cui è tutto latte e miele nei confronti del governo, anche se garantisce che lui rimarrà sempre all'opposizione, sì, però è molto molto molto conciliante nei confronti di Giuseppe Conte. Sì, sì, eccoci qua. Eccoci qua. Ed eccoci qua. Questa abbiamo già detto tutto. Sì, quasi tutto. Di certo, ecco, tutto questo serve, così veniamo poi al cuore della questione, a un po' zittire questa tensione che si respira all'interno del governo. Ancora una volta protagonista Italia Viva. Il tema è quello della regolarizzazione dei migranti, ma non solamente quello, anche il ruolo del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ossia le fibrillazioni oggettivamente ci sono e sono forti, no? Ecco, io non ho fatto in tempo a mettere parole di miele, che ecco che tu cominci, ecco, sì, a mettere sono due terribili, spine. Allora, sono va bene, guarda, io voglio venirti dietro. Migranti, i migranti, c'è una proposta della ministra Bellanova di regolarizzare i 600.000 immigrati che non sono regolarizzati, che quindi lavorano al lavoro nero, alcuni si danno anche alla delinquenza. Dice: approfittiamo di questa pandemia, regolarizziamo, ministro dell'agricoltura, con la scusa della carenza di manodopera, scrive il Libero, la scusa, la carenza di manodopera, c'è quei pomodori che voi trovate al supermercato, qualcuno li dovrà raccogliere. Dice: regolarizza un esercito di clandestini invece di assoldare i nostri disoccupati. E no, non voglio polemizzare col Libero, ma non è che i nostri disoccupati non si vanno a assoldare, sono anni, decenni che non vogliono andare a raccogliere quei pomodori, li raccolgono i migranti. La ministra Bellanova dice: approfittiamo di questa occasione, basta con le ipocrisie, regolarizziamo. E questo, sì, sarà un argomento di grande tensione, grandissima tensione, perché il Movimento 5 Stelle, per non dare spazio alla Lega, anche per non dare spazio alla Lega, forse perché lo pensa veramente, non lo vuol fare, ma sarà argomento del canale televisione. Sicuramente. L'altra, quella che dici tu, è quella di buona fede, no? Di buona fede dei mafiosi. Anche qui partiamo, Repubblica. Sì, che è quella che ha la notizia più importante, mi sembra anche di sostanza, no? Sì, 376 boss scarcerati, ecco la lista riservata che allarma le procure, mafiosi, narcotrafficanti mandati a casa nell'ultimo mese e mezzo a causa della pandemia, qui non dice come libro con la scusa della pandemia, sì, ma mandati, pubblica anche uno schema di questi mafiosi, di questo schema. La cosa che mi ha colpito è che la regione che ne esprime di più, dove ne sono stati mandati a casa di più, non è la Sicilia, come potremmo immaginarci, ma la Campania. Sì. La batte di misura. 49 in Sicilia, 52 in Campania, nel pezzo di Salvo Palazzolo tra l'altro si citano, giusto per dare un esempio agli ascoltatori, perché finora abbiamo parlato dei mafiosi scarcerati che erano al 41 bis, cioè il regime carcerario più duro, poi c'è un regime carcerario lievemente attenuato rispetto al 41 bis al quale stavano tutti costoro, e tra costoro, racconta Palazzolo, tanto per fare un esempio, c'è Antonino Sacco, l'erede dei fratelli Graviano, gli uomini delle stragi del 92-93, ai domiciliari anche Gino Bontempo, uno dei padrini della mafia dei Pascoli, che fino a gennaio dettava legge sui Nebrodi. Insomma, questa è la misura, cioè è gente di rango criminale elevato, insomma. Certo, però per dare la misura che invece non si tratta di un complotto per liberare i mafiosi, scrive correttamente Palazzolo che per 63 detenuti sono stati i direttori delle carceri a sollecitare i provvedimenti, nel senso che alcuni sono malati, e per me vale un principio che è enunciato proprio sulle colonne di Repubblica da Saviano due o tre giorni fa, che dice che lo Stato di diritto deve valere anche per Caino, questo era il titolo, sì, dell'articolo, oggi un pezzo viene riportato di nuovo su Repubblica, ed è vero, insomma, se tu sei un mafioso, sei malato di cancro, come erano i primi, quelli del 41 bis che tu hai citato precedentemente, e hai ancora da scontare 7-8 mesi e c'è il rischio che ti prendi il Covid e vai all'altro mondo, la forza di uno Stato di diritto è quella, con tutte le cautele. Casomai nell'articolo mi colpisce il fatto che si segnala che l'elenco è stato inviato solo una settimana, sì, fa alla Commissione Antimafia. Cioè io farei le cose come sono state fatte, più o meno, sì, adesso poi salvo entrare nel dettaglio, ma sorveglierei caso per caso e lo segnalerei alla massima autorità che è la Commissione, sì, Antimafia. Sì. Dicevi giustamente che questa cosa si porta con sé il caso Di Matteo, e qui ieri tutti i giornali hanno provato a mettere un po' di silenziatore su questo caso, ma il caso oggi riesplode perché Di Matteo parla praticamente con tutti oggi, Di Matteo, insomma, cioè, però da due interviste esplosive, una al Repubblica stessa e una alla Stampa, in cui accusa il ministro, dice Bonafede cambiò idea sulla mia nomina al DAP per lo stop di qualcuno, cioè continua ad accusare il ministro Bonafede, come se lo sapesse bene, che ci fu qualcuno, quindi non solo le voci dei mafiosi che, sì, dicevano speriamo che non torni Di Matteo, che non venga Di Matteo alla guida delle carceri, ma che qualcuno si sia fatto interprete delle voci di questi mafiosi e abbia, sì, detto a Bonafede no, tu Di Matteo non lo devi, sì, non lo devi nominare. Sì. La posizione debole, scusami, di Bonafede è quella di dire meglio gli avevo offerto il posto che era quello di Falcone. Il posto di Falcone non era più il posto di Falcone perché nel frattempo, sì, era molto cambiato e quindi ha chiamato. Non aveva più la rilevanza che aveva come all'epoca. Come se a te ti offrissero il posto di direttore della radio, cosa non succederà mai. Sole 24 ore e poi ti dicono guarda c'è anche però il posto di microfonista, abbiamo cambiato idea, su quel posto. Ma tanto non accadrà né una cosa né l'altra, è inutile che ti fai delle illusioni. No, no, per carità, guarda, io no, per carità. Senti, sì, tra l'altro dicevi probabilmente attraverso qualcun altro, questo lo fa capire Di Matteo, se e da dove fosse giunta un'indicazione negativa, magari uno stop degli alleati o di altri, questo io non posso saperlo, lo dice Aliana Milella appunto sulla Repubblica. La via d'uscita l'ha già offerta Marco Travaglio, che è un amico intimo di tutti entrambi, e che ha detto ma non ci sono capiti, erano in buona fede giocando sul cognome del ministro, in buona fede entrambi, non si sono capiti bene, parlavano per telefono. E se conosco la politica italiana, alla quale un po' tutti si sono allineati, anche i membri come Di Matteo del Consiglio Superiore della Magistratura, finirà così anche questa volta. Amici come prima, una bella bevuta quando si potrà fare, e sì, non in gruppo e a distanza di sicurezza, una bella bevuta e via andare. Però la tempesta oggi è grossa, perché siccome questa offerta di pace Travaglio gliel'ha fatta ieri, e Di Matteo non si è fatto raccogliere, non l'ha accolta, e oggi no, non l'ha accolta. Non fare l'ironica, è una vicenda gravissima. No, per carità. È una vicenda molto grave, perché Di Matteo è un personaggio autorevolissimo, tra l'altro molto popolare proprio al Movimento 5 Stelle. Sarà doloroso per loro scaricarlo come un toro impazzito, e in più è un membro del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi parlane con rispetto, ti prego. No, assolutamente. Tra l'altro oggi ne parleremo alle 8:20 con Maria Latella, avremo ospite Vito Crimi, attuale leader del Movimento 5 Stelle. Allora, il traffico, e poi veniamo alle questioni economiche, a partire da questa decisione della Corte Costituzionale tedesca che sta facendo discutere e genera qualche preoccupazione sull'azione della Banca Centrale Europea. A tra poco. Dunque, la decisione della Corte Costituzionale tedesca, che ben riassume già in prima pagina il Sole 24 Ore, la BCE dovrà dimostrare che il programma di acquisto di titoli pubblici, titoli di Stato, non è uno strumento di politica economica e ha 3 mesi di tempo. È una questione naturalmente importantissima, rilevantissima, che ha a che fare con il fondamento, no, del sostegno che è arrivato anche all'Italia in questi mesi, in questi anni, Paolo. Sì, articolo di Isabella Bufacchi, pagina 7 del Sole 24 Ore, giudici tedeschi contro la Corte UE. Ben inteso, non si sta discutendo del piano di aiuti per la pandemia, si sta discutendo del vecchio quantitative easing di Mario Draghi, ma la Corte Costituzionale tedesca, dice, ma Karlsruhe, detta dal nome della strada in cui è l'edificio, ribalta un verdetto del Tribunale Europeo che aveva fatto nel dicembre del 2018, il Tribunale Europeo, per dire va tutto bene, e dice che l'acquisto di titoli pubblici deve avere delle proporzioni, non può essere fatto così in modo indefinito, dato, come tu hai ricordato, 3 mesi per chiarire, oppure la Bundesbank uscirà dal programma. Per adesso è una questione, può apparire tecnica, ma in realtà è molto grave. Il governo tedesco getta fuoco, Scholz dice ma non vi preoccupate, c'è tempo per rispondere, sempre un articolo della Bufacchi, però Donato Masciandaro alla sua analisi dà come titolo un'entrata a gamba tesa sull'eredità di Draghi. E sì, gli altri giornali lo mettono tutti in una grandissima evidenza, sì. Il manifesto ci fa l'apertura, la Germania apre la battaglia su chi pagherà la crisi, ecco, questo coglie il dato centrale, e sì, il succo di questa storia è che la Germania dice, sentite, levatevi dall'idea, l'abbiamo affrontata questa crisi in modo differenziato, noi abbiamo avuto minori danni di tutti gli altri, perché oggi la notizia del giorno sul piano del virus è che l'Inghilterra, la Gran Bretagna ha scavalcato l'Italia, il primo paese europeo per colpiti da virus. Noi l'abbiamo affrontata per tempo, in modo migliore, in modo responsabile, vi abbiamo dato una mano, ma levatevi dall'idea che noi siamo rubinetto, voi venite qui col secchio, prendete l'acqua e lo buttate a spegnere i vostri incendi. Siate più responsabili, non è che non è una dichiarazione di egoismo, anche se alcuni la trattano come tale, ma una dichiarazione di dire non vi fate illusioni per il futuro. E secondo me questo appello è bene raccoglierlo con i toni con cui lo ha raccolto Donato Masciandaro sul Sole 24 Ore, una cosa molto importante che avrà delle conseguenze di fronte al quale quei continui piagnucoli Germania e Olanda siete poco generosi, così non hanno senso essere. Non è pensabile che andiamo avanti 3 anni a fare questi piagnucoli. Insomma, dobbiamo comunque i giornali di destra fanno un gran cancan, la verità c'è partito, la Germania dai 3 mesi alla UE, la Corte Costituzionale tedesca tratta la BCE come la sua colf. Insomma, molto, molto, molto duro. Più equilibrata naturalmente l'intervista di Fabio Martini a Romano Prodi a pagina 3 della Stampa. Tra l'altro la Stampa ci fa l'apertura. Vedi, anche lui dice Berlino ha perso fiducia in Europa, anche lui trae Prodi. In questa bella intervista che fa oggi sulla Stampa trae il senso di questa vicenda. Guardate che Berlino sta rientrando in sé e nonostante la Merkel sia stata strepitosa durante i giorni della crisi, dice Prodi, è una sentenza che dà un colpo al cerchio e uno alla botte, che dice non dice, ma che nella sostanza riflette l'attuale atteggiamento della Germania verso l'Europa, né caldo né freddo, semmai tiepido, dice l'ex premier ed ex presidente della Commissione Europea. Non male. Senti, visto che eravamo sul Sole 24 Ore, abbiamo citato lunedì il pezzo di Sergio Rizzo, no? Su tutti questi provvedimenti che ci sono stati, no? In questo periodo di Covid-19. Il Sole 24 Ore mette insieme anche quelli regionali, fa un conto complessivo. Oggi c'è un articolo a pagina 3, questo di Marco Rogari, che mi ha lasciato a bocca aperta. In 100 giorni di lotta al virus, era questo, no? Certo. 763 atti di governo e regione, il contatore, sono 224 provvedimenti di Palazzo Chigi, ministeri, commissari e protezione civile, 539 quelli dei governatori, superano quota 1400 gli incarichi e le strutture d'emergenza. A proposito, Conte ha detto a Colau di mettere più donne, hai notizia tu delle nuove donne nella No, non ancora, non ancora, però la promessa c'è. Quante saranno le nuove donne? Tu ne sai niente? No, non ne so, non ho dettagli su questa cosa. Però ho capito che sui giornali continua Linda Laura Sabatini oggi su Repubblica, però insomma presto, no? Uno gli dice metti nuove donne, io se fossi, vabbè, lasciamo perdere questo. Mentre tu stai seguendo il calcio? Un po', molto, molto, molto vagamente, insomma. Però insomma, ovviamente c'è una mega polemica perché c'è un altro ministro, abbiamo parlato di Bonafede. Abbiamo parlato nelle scorse ore della ministra Pisano e sul tema dell'app Immuni, per la quale in realtà la famosa task force le avrebbe indicato due possibilità e lei ne avrebbe scelta una senza dire che, cioè dicendo che era task force. Oggi c'è un articolo sul Corriere della Sera che dà conto di questa confusione perché continua. E poi il terzo è Spadafora, no? Che è un po' sotto attacco. Leggo dai giornali anche Luca Lotti dal Foglio attacca abbastanza duramente Spadafora e dice si scorda che è un'industria da 1 miliardo di fatturato l'anno. E tu invece dire? Quelli che sono appassionati di partite, guardate, oggi a pagina 11 del Fatto c'è una notizia: il calcio si affida a Guido Alpa per convincere Conte a dire sì. Guido Alpa è il grande, l'eminenza grigio, il mentore di Conte, il professore che l'ha portato ai più alti onori accademici. E quando vedi comparire il nome di Guido Alpa sui giornali vuol dire che la questione, Conte è molto sensibile ai suggerimenti di Guido Alpa, il professor Guido Alpa, il quale sta facendo una carriera strepitosa anche nei giornali. L'altro giorno Repubblica ha pubblicato un grandissimo articolo di apertura delle pagine culturali di Guido Alpa, insomma ha preso il posto che era di Arbasino, ecco, per dirti. Quindi, beh, insomma, dico, quando entra in campo Guido Alpa, la questione si risolve, perché poi, quindi secondo te ricominciano alla fine? Eh beh, se se ne occupa Guido Alpa, bisogna vedere se Guido Alpa se ne occupa fino in fondo, ma sì, secondo me ricomincia. Secondo te ricominceranno. Perché... Senti, vorrei chiudere con una cosa più leggera. Abbiamo parlato tanto del tema, aperte virgolette, anziani, chiuse virgolette, perché in questo caso parliamo di Mara Venier, che di anni ne ha 69, una cosa un po' più leggera. Cioè, questa intervista al Quotidiano Nazionale, nessuno mi allontanerà più dal mio nipotino. Paolo, alla fine Mara del Venier. Lockdown. Sì, la presentatrice che più mi ha colpito, sai con chi se l'è presa? Con la virologa Ilaria Capua, l'hai visto? Dice, la stimo molto l'intervista prima, diciamolo bene, di Piero Degli Antoni, un'intervista sul nonno, lei invece di comparire come diva della TV, compare come nonna, e dice, Ilaria Capua, la stimo molto, ma quello che ha detto è stato un colpo al cuore, siamo già così avviliti, preoccupati, disperati, sentirsi dire che il rapporto tra nonni e nipoti non sarà più lo stesso è stata una cosa molto forte, una vera mazzata. Certe considerazioni andrebbero dette in un altro modo, c'è stata un'autentica sollevazione la sollevazione dei nonni, la sollevazione dei nonni. Povera Ilaria Capua, non è che ha detto basta, ho deciso io, i nonni vadano a quel paese, ha semplicemente detto che è molto più pericoloso che i nonni abbracciano i nipoti senza mettere a rischio la propria salute, perché quello è un veicolo di trasmissione e, diciamo, un raffreddamento dei rapporti fra nonni e nipoti sarà permetterà inevitabile anche ai nipoti di andare a scuola, di poter essere più liberi, perché sennò vanno tenuti tutti in un congelatore solo perché li possa riabbracciare Mara Venier ognuno i suoi. Non si può. Grazie Paolo, anche per oggi ci ritroviamo venerdì. Grazie Paolo Mieli, buona giornata. Ci sentiamo venerdì. GR24, ci troviamo subito dopo con Maria Latera, come vi dicevo, Vito Crimi e non solo. Parleremo anche di turismo. Come ripartirà il turismo? Se ripartirà, speriamo di sì.